La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera a tutti, l'ospite della puntata di oggi, lo dico con una certa fierezza, è Fiorella Mannoia, cantante dalla voce inconfondibile, interprete di canzoni memorabili, soprattutto un'artista che si è sempre molto molto impegnata per le cause civili. Ecco, la prima domanda che le vorrei fare è proprio questa: lei è sempre stata una persona attiva, come dire, in prima linea, o nel tempo ha conquistato questa voglia, questa necessità? Ma guardi, io mi sono sempre occupata di quello che mi succedeva accanto, perché insomma io ho sempre sostenuto che prima di essere una cantante sono un cittadino come tutti gli altri, per cui sono sempre stata attenta alla politica, ma non tanto la politica in quanto in senso lato, proprio il fatto di essere partecipi a quello che era la vita dei cittadini, insomma, che in fondo mi occupo di questo perché è un dovere, l'ho sentito sempre come un dovere di cittadino quello di occuparsi di quello che ci riguardava, ecco, e quello che ci riguardava è in mano alla politica naturalmente, per cui mi sono sempre sentita partecipe. E poi naturalmente crescendo anche la mia, tra virgolette, popolarità, ho continuato sempre ad occuparmene. È normale che una volta quello che dicevo lo ascoltavano poche persone, e oggi ho questo privilegio di avere la fortuna, che insomma, o la sfortuna, insomma, secondo i punti di vista, di essere ascoltata, seguita. Questo è anche un modo per restare collegata proprio al reale, visto che adesso è una persona popolare, famosa. Questo restare così attivi anche politicamente è un modo, secondo lei, per restare collegati a quello che vive veramente la gente? Beh, io penso che esprimere le proprie opinioni su quella realtà che ci circonda è un diritto di tutti, compreso il mio. Essere artista non vuol dire non essere partecipi alla cosa pubblica, diciamo, no? Perché insomma io non posso scindere le cose. Anche le scelte delle canzoni che canto, certo, sono scelte che mi rappresentano. Credo che questo non lo faccio solo io, insomma, credo che il mondo sia pieno di cantanti, di attori, di gente di spettacolo che si interessa della cosa pubblica. Uno fa i conti con la propria coscienza, insomma, ecco, non posso parlare a nome degli altri, io parlo a nome mio. Certo. Io credo che non sono arrivata alla mia età per essere codarda, ecco, insomma, ho avuto tanto dalla vita, anche mettere a disposizione un po' del mio tempo per gli altri la sento come un'esigenza mia, personale. Poi gli altri fanno come credono, insomma. E cosa pensa della parola buonista, cioè quando sente usare questa parola? Guarda, è una parola che detesto, della verità, perché a parte che tutti gli ismi mi fanno un po', mi lasciano perplessa, ma la parola buonista è proprio una cosa che detesto, non so neanche cosa vuol dire essere buonisti, o uno è buono o uno, esatto, è cattivo, cioè non ha, è una parola proprio che non ne capisco il senso. Non potrebbe essere un'invenzione fatta proprio per svilire le persone più idealiste, più... Ma io lo penso assolutamente, sì, lo penso perché allora se sei compassionevole nei confronti del tuo prossimo, se senti empatia nei confronti della sofferenza degli altri, diventi un buonista. Se pensi che il mondo potrebbe essere migliore, sei un idealista. Se dici qualcosa che per migliorare, per contro questa corruzione, allora sei un demagogo. Cioè ogni cosa che dici, c'è sempre qualcuno che ti rimprovera di essere qualcosa di sbagliato. Io credo, insomma, che stiamo vivendo in un momento così, così particolare. Io credo non era questo il mondo, non era certo questo il mondo che quando ero ragazza pensavo di poter costruire insieme agli altri. Ecco, tutti i miei sogni si sono infranti, perché in realtà non avrei mai pensato di vedere milioni di profughi tenuti nella terra di nessuno, con nessuno se ne occupa, che nessuno si muove a compassione, cioè, anzi la gente non, rimane indifferente. Cioè, mai avrei pensato che quando ero ragazza, che noi le nostre utopie, le nostre ideologie si riducessero a questo. Ecco, sono veramente, personalmente sono disamorata, sono delusa e sono ormai faccio fatica a pensare di trasmettere ottimismo, ma lo devo fare per me e per gli altri, non è, insomma, non mi posso permettere di essere pessimista, ma anche per me stessa. Però devo pensare, devo credere ancora che ci sia una soluzione a tutto questo. Certo che i fatti che ci sono, le guerre in corso, ti demoralizzano. Onestamente devo dire la verità, sono un po' demoralizzata da tutto quello che sta succedendo. E una cosa però che a me fa impressione è anche la mancanza di rabbia, perché ma io penso che ci stiamo abituando, questo è drammatico. Io credo che ci stiamo abituando come ci si abitua alla pioggia. Cioè, non ci fa più impressione vedere gente che annega, bambini che galleggiano, gente accalcata in campi, accampati in mezzo al fango. Non ci fa più pena neanche quel bambino nato nel fango, sciupato con la bottiglia d'acqua minerale. Non ci fa più pena niente. Questo è quello che ci stiamo abituando all'orrore. Chiunque levi una voce per ricordare che sono esseri umani, ecco, viene tacciato per buonista o ti dicono portateli a casa. Cioè, è veramente preoccupante quello che sta succedendo. Forse siamo anche a momento di svolta anche politico per questa Europa, no? Che ha imbarcato che tanta... ha fallito da tutti i punti di vista. È un'Europa che non esiste. Esiste un'Europa finanziaria, un'Europa delle banche, esiste un'Europa legata alle multinazionali. Ma c'era una canzone di De Gregori che diceva: ci avevi creduto davvero che avremmo parlato esperanto? Ecco, io penso che davvero questa cosa qui, tutto questo sogno di unità si infra, non c'è mai stato in realtà, non si sente quel sentimento di appartenenza. Non so, insomma, io penso che l'idea era molto bella, quella di un'Europa unita. Era un'idea bellissima, ma di fatto è fallita. Avevi creduto davvero che avremmo parlato esperanto? L'avevi creduto davvero o l'avevi sperato soltanto? Ma che tempo, che elettricità, che è, e che tempo che sarà, ma che tempo farà, non lo senti che tuona, non lo senti che tuona già, non lo senti che suona, è lontana però, sembra già più vicina, questa musica che abbiamo sentito già. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. La prima volta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Dove sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni? Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita. Seconda parte della nostra trasmissione, che abbiamo deciso di aprire facendovi sentire un estratto del brano L'ultimo di Fiorella Mannoia dal titolo Perfetti Sconosciuti. Ed è proprio la Mannoia l'ospite di questa sera. Romana, figlia del cascatore siciliano Luigi Mannoia, ha iniziato Fiorella con il fratello Maurizio e la sorella Patrizia a fare lo stesso lavoro del padre, quindi ha lavorato nel mondo del cinema come stunt girl e controfigura. Nei primi anni 70, siccome sapeva andare bene a cavallo, Fiorella Mannoia ha recitato anche ruoli minori in alcuni spaghetti western. Sì, io per un certo periodo della mia vita, sapendo andare a cavallo, per la prima volta mi hanno chiamato chiedendo se volevo sostituire un'attrice in un film. Io dissi di sì, perché mi divertiva il fatto. E l'ho fatto per un periodo di tempo piccolo, insomma, non è che proprio l'abbia fatto per tanti anni. Ma insomma, per 5 o 6 anni ho lavorato, facevo questo, mi chiamavano per girare delle scene pericolose nei film che le attrici non potevano, non volevano, non potevano fare. Per cui ho avuto una bellissima esperienza che si è aperta e si è chiusa lì. Però stranamente il cinema invece nell'ultimo anno ha attraversato la mia strada. Sì, perché adesso anche il suo nuovo singolo, tra l'altro, è, diciamo, la colonna sonora del film Perfetti Sconosciuti. Il suo nuovo singolo si chiama Perfetti Sconosciuti, per cui... Sì, sì, sì, sta andando benissimo, perché insomma, onestamente la canzone mi sembra bella. È molto bella, film, sì. E il film è fantastico, per cui devo dire che è stata un'operazione riuscitissima, sono fiera di averne fatto parte. E poi ho finito di girare un film con Michele Placido invece che mi vede nel ruolo di attrice, e questa è stata un'esperienza, veramente una bellissima esperienza, ecco. Sono contenta di aver partecipato, Michele Placido mi sembra contento, io ho fatto un'esperienza meravigliosa, insomma, penso che il film uscirà, credo, non lo so, non so dirtelo ancora con esattezza, ma stanno cercando di prepararlo per maggio, se no sarà settembre, insomma, non lo so, non sta a me dare una data di uscita. Senta, una cosa, l'ultima che le volevo chiedere era, lei sì. Ha anni di collaborazioni con i migliori cantautori italiani, adesso ha citato sì. De Gregori, ma Dalla, insomma, ce ne sono tantissimi con i quali sì. Lei ha lavorato. E tantissimi riconoscimenti, ha dato la sua voce anche per Amnesty, insomma lei è, come dicevamo all'inizio dell'intervista, una persona molto impegnata. Se si guarda indietro nella sua vita professionale, ma anche così in generale, cioè, cosa le manca, se c'è qualcosa che ogni tanto dice ma avrei potuto... Ma guarda, io devo dire la verità, mi ritengo una donna fortunata e privilegiata. Non sarebbe giusto che io recriminassi qualche cosa, perché non ho avuto figli, ma penso che tutto nella vita non si possa avere. Ho già avuto abbastanza, ho avuto tanto, ho avuto molto di più di quanto io avrei soltanto potuto immaginare quando ero adolescente, per cui no, posso solo ringraziare e non chiedere più niente. Le faccio una domanda al volo invece sull'attualità, cioè lei vive a Roma, continua a vivere sì, a Roma. Io vivo a Roma. Sì. Ecco, come la vede oggi la sua città? Bah, questa è una bella domanda. La mia città la vedo male, la vedo proprio abbandonata. È una città, la mia povera Roma è stata veramente saccheggiata, stuprata, che altro posso dire? È una città, una delle città più belle del mondo, ecco, siamo sempre lì, no? Sì. Che potrebbe vivere di turismo per le cose che le meraviglie che ha, invece è abbandonata, tutti sappiamo gli scandali che l'hanno macchiata, povera Roma mia, e non so se vedo prospettive adesso future, perché tra i candidati insomma non mi sembra che ci sia niente che possa far sperare a qualcosa di buono. Bisogna fare, e non invidio nessuno, si prenda, nessuno onesto che si prenda questa patata bollente, perché Roma sta sull'orlo della bancarotta, insomma, ormai hanno prosciugato tutto quello che potevano prosciugare, e non solo, oltre che hanno preso quello che hanno dovuto prendere, hanno anche indebitata per non so quanti miliardi di euro, non so, non saprei dire, nessuno lo sa in realtà, per cui c'è una corruzione spaventosa, per cui chi si prende questa gatta da pelare non le invidio, ecco, invidio chi dovrà governarla. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, venite a risentirci in podcast sul sito di Radio 24, venite a salutarci su Facebook, Radio 24 trattino la prima volta è l'indirizzo. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. La bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. Occhi neri e distanti, calamita e diamanti, occhi belli e impazienti, due sparvieri vibranti che ti lasciano muto, tramortito, seduto, e non riesci a capire perché. Occhi senza ritorno, se ne va un altro giorno, senza parole io li guardo passare, finirà questa neve, questo inverno sarà breve, il coraggio magari verrà. Assoluti e sinceri, occhi attesi e cercati, occhi sconsiderati, la bellezza è cattiva, la mia mano non ci arriva ed io ancora non so bene perché. Occhi senza ritorno, è arrivato il mio giorno, occhi senza parole, più aspettare, scioglierò questa neve, questo aprile sarà breve, mio amore lo ricorderà. Scioglierò questa neve, il dolore sarà lieve, mio amore lo ricorderà. Scioglierò questa neve, il dolore sarà lieve, mio amore mi ringrazierà. Thank you.